Letture di Radio 24. Le piccole distrazioni durante la guida si traducono in piccoli momenti di deconcentrazione, durante i quali la nostra auto può percorrere distanze che vanno dai 120 metri, quando ci aggiustiamo i capelli, ai 560 metri, quando controlliamo i social network. E la tendenza, sempre più diffusa, è ormai quella di scattarsi dei selfie mentre si guida. Possibile che un giovane su quattro non possa fare a meno di farsi un selfie mentre è alla guida? Possibile che il fascino di un autoritratto con lo smartphone sia irresistibile? Uno studio realizzato dalla Ford ha certificato che è proprio così. Purtroppo, questa nuova abitudine che si sta diffondendo è infatti ad altissima pericolosità. Scattarsi un selfie alla guida comporta una distrazione lunga 14 secondi, mentre accedere ai social media può deconcentrare dalla strada per ben 20 secondi, un tempo nel corso del quale un'auto che procede a 100 km orari percorre la distanza di 5 campi di calcio. E la cosa incredibile è che questo rischio lo conoscono tutti, lo confermano le risposte ai test, ma nessuno ne tiene conto. Sembra quasi che più se ne parla e più l'abitudine si diffonde, senza pensare alle conseguenze, che possono essere fatali, come lo sono state per Courtney Sanford, la 32enne morta sul colpo in un incidente sull'autostrada della Carolina del Nord, subito dopo aver pubblicato su Facebook un selfie e un post: «La canzone Happy mi fa felice». Per questo, dunque, pur continuando a denunciare simili assurdi comportamenti, l'industria dell'auto cerca di anticipare i tempi della guida autonoma, dove l'intervento umano sarà sempre meno rilevante. Una guida governata dalla tecnologia, con automobili che vedono gli ostacoli e anticipano i comportamenti da adottare. Insomma, guardando l'evoluzione delle abitudini degli automobilisti, in futuro la sicurezza totale potrà essere garantita soltanto da un robot in grado di sostituire completamente le funzioni umane. Ci vorranno ancora degli anni, chi dice 10, chi ancora di più, e altissimi investimenti. Ci vorranno nuove normative e polizze di assicurazioni rivoluzionate, ma alla fine i risultati saranno senza dubbio enormi. Sicuramente migliori di chi prova a convincerci a parole che quando si è alla guida non bisogna parlare al cellulare, mandare SMS, consultare i social network o addirittura scattare un selfie. Tentativo, allo stato attuale, inesorabilmente inutile. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Valerio Berruti, Quell'autoritratto ha un prezzo molto alto, dal venerdì di Repubblica del 5 settembre. Letture di Radio 24. Al di là delle ragioni che hanno spinto Christian Claude Butoi a massacrare le tre suore missionarie, quello che è successo in Burundi la settimana scorsa è solo l'ennesimo episodio di persecuzione nei confronti dei cristiani. Se il numero dei fedeli è in continua diminuzione nel mondo occidentale, in Africa e in Medio Oriente negli ultimi anni si è registrato un sensibile incremento di cristiani, che in molti paesi sono però oggetto di massacri, persecuzioni e conversioni forzate da parte degli estremisti islamici. Ma cosa succederebbe se un giorno il cristianesimo dovesse morire? Se lo domanda Guido Ceronetti in un articolo pubblicato sulla Repubblica. Un aforisma di Cioran, il filosofo romeno, dice: «Il cristianesimo è morto quando ha cessato di essere mostruoso». Il quando è una data da andarne in cerca, ma non è molto lontana. Le mostruosità hanno lunga vita e lunghissime agonie mortali. A volte sono immortali, come l'antisemitismo. Succederà anche all'Islam. Da qui lo sforzo per sopravvivere all'onda che spazza la tolda aggrappandosi al controllo, all'oppressione e al terrore puro. La fase attuale si può vederla come struggle for life darwiniana. Tutte le fedi monoteiste sono risucchiate dal buco nero. Non ne scompare una senza che l'altra la segua. Forse la mostruosità cristiana specifica è in declino da quando sono cessati gli autodafè e i processi delle streghe? Nei tempi nostri, da quando il Papa è sceso dalla sedia gestatoria e si è messo a fare viaggi trionfali, il Vaticano II andrà visto come una cessazione del carattere mostruoso della Chiesa, che avrà impresso un'accelerazione al processo mortale del cristianesimo in ambito cattolico? Nell'ortodossia scismatica, la russa in specie, cessati il terrore e le persecuzioni comuniste, ha prevalso, mi pare, una continuità pacifica da zombie. Non ci vedo più niente di vivo. Ma fino a ieri non furono pochi i martiri. Léon Blois, cristiano cattolico dei più grandi e dei più mostruosi, spettatore da un sobborgo di Parigi delle frenesie di distruzione della Grande Guerra, profetizzava l'avvento del Paracleto, lo Spirito Santo, previsto per la fine dei tempi storici. Come estrema speranza di credente, invocava e aspettava che un misterioso qualcuno venisse. Ma dopo la sua morte nel 1917 e la ridicola pace del 1919, quale mai consolatore e redentore assoluto è venuto? Agnellini divini che abbiano portato i mali del mondo, tanti, per lo più anonimi, come adesso, come domani. Ma di paracleti nessun segno. L'Europa credente, inevitabilmente allora tutta cristiana, secondo Paul Fussell, era in ripresa nelle trincee, ma non credo che in quelle condizioni la fede tradizionale andasse oltre le invocazioni mentali prima degli assalti e ai gemiti dei rantolanti abbandonati nelle buche. Preghiere per la pace e natali di speranza non mancavano nelle nazioni combattenti, sempre meno invogliate a farsi fare a pezzi. Però di che vive una religione mistico-trascendente se non di speranze che oltrepassano infinitamente qualsiasi tregua d'armi e ritorno a casa? E dopo la guerra, gli sterminati campi di croci segnano, nonostante il simbolo cristiano, l'apparizione di un culto nuovissimo, estraneo alla confessione cristiana, quello dei caduti. I caduti ignorano la vita futura. Con più struggimento che nei libri, il tragico della morte di Dio, del Dio cristiano, lo trovi nel cinema firmato da Ingmar Bergman, dove senti il fragore delle ondate tra cui il Titanic cristianesimo, protestante o cattolico, sta colando a picco. La stupefacente rinuncia del Papa Ratzinger è un dramma bergmaniano. Il Papa teologo vede lucidamente non poter più reggere o essere predicata la sua teologia da patrologia latina o greca, rigetta un cristianesimo che non ha la forza di rianimare, e si ritira in un monastero che gli sarà come un piccolo surrogato dello scoglio di Sant'Elena. Ma rivediamo un capolavoro di Bergman come Luci d'inverno, dove alla pieve di un piccolo paese il pastore Erickson dice messa nella chiesa perfettamente vuota di fedeli. Lo scenario, il rito luterano, l'officiante ci sono, le anime no. Immaginiamo la magnificenza di San Pietro come l'orrida bruttezza di una piazza di Seul, gremite di folla, e un giorno il Papa che si affaccia per benedire piazze deserte. Avrà visto questo? Il Papa invece delle piazze dei trionfi puntuali? Il deserto della chiesa di Frostnas? La stessa visione non afferra anche il Papa Francesco? Da certi affioramenti in lui di dubbiosità e inquietudine, in pause di stanchezza, direi di sì. Un mondo decristianizzato è un mondo vuoto, orfano anche di nordiche luci d'inverno. Beati i perplessi. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Guido Ceronetti «Se muore il cristianesimo», dalla Repubblica del 10 settembre. Nel 1991 alcune città del sud-est della Sierra Leone vengono occupate dai soldati del Fronte Rivoluzionario Unito, nelle cui fila militavano anche guerriglieri provenienti da Burkina Faso e Liberia. I ribelli fanno leva sul malcontento della popolazione, ridotta in miseria dalla corruzione governativa e da anni di lotte per accaparrarsi le riserve diamantifere del paese. È l'inizio di una guerra civile che si concluderà solo 11 anni dopo, grazie all'intervento della Gran Bretagna. Oltre ai 50.000 morti e alle migliaia di feriti e di invalidi permanenti, la guerra lascia un segno indelebile nella popolazione. Quasi tutti gli abitanti soffrono infatti di stress post-trauma, una malattia che li porta a fuggire da una realtà nella quale non riescono più a riconoscersi. È in questo contesto che si inserisce il nuovo romanzo di Aminatta Forna, scrittrice nata in Scozia, ma cresciuta in Sierra Leone, paese di origine del padre. Il protagonista de Il ricordo dell'amore è Adrian Lockhart, uno psicologo inglese arrivato in Africa proprio per curare i traumi derivati dalla guerra civile. Un giorno Adrian viene chiamato dalla polizia di Freetown per occuparsi di un uomo che i familiari avevano appena accompagnato in centrale, definendolo come pericoloso. Adrian lo porta all'ospedale psichiatrico e qui viene accolto da Ileana, la vice direttrice, che lo invita a visitare i reparti e gli spiega cosa era successo al termine della guerra civile. Per quanto ne so, la maggior parte dei pazienti è sopravvissuta. Non c'è posto al mondo, ricco o povero, dove la pazzia non faccia paura alla gente. Chiamiamola paura, sebbene ci sia anche una componente di rispetto. Dopo l'invasione della città, i ribelli li hanno lasciati in pace. I ribelli hanno saccheggiato ovunque, incendiato case e bruciato vive centinaia di persone. Quelle più povere, naturalmente, come sempre. Le hanno costrette a marciare dentro la città per usarle come scudi umani per i combattenti. Ci sono state atrocità da tutte le parti. Così, quando le cose sono peggiorate, soprattutto durante l'occupazione, la gente si è nascosta fra queste mura, fingendosi pazza. Poetico, non crede? Dopotutto, questo è un manicomio. C'erano perfino un paio di soldati della forza di pace. Intanto, erano arrivati alla porta dipinta di grigio di un edificio lungo e basso, simile nella forma a un granaio. Lei si soffermò con la mano sulla maniglia. «Ok, è pronto?» chiese. Adrian annuì. «Però non è pronto, non per questo. Non è ancora in grado di darvi un senso, ma lo farà. Il silenzio che sovrasta tutta la struttura. Tengono i pazienti sedati, sedati e incatenati. L'uomo che ha davanti tiene le mani protese e unite. Quello è il modo che le persone hanno qui di salutare, una forma abbreviata di una vera stretta di mano. Provenendo dall'uomo incatenato al letto, quel gesto somiglia molto a una preghiera. «Racconta al dottore cosa ti ha portato qui», disse Ileana. «Ho ferito mio padre, lui mi ha portato qui». «Perché lo hai ferito?» «Era seduto nella veranda. Era una notte, una brutta notte. Avevo paura, non l'ho ferito». «Allora perché dici di averlo fatto?» «Ho visto la ferita». «Qual è la sua diagnosi?» domanda Adrian più tardi, mentre lasciano il reparto. «Psicosi, indotta dalla droga». «E la droga in questione?» «Per lo più cannabis. Non ce ne sono molte altre che chiunque si possa permettere. C'è un po' di eroina, che qui chiamano brown brown, ma ovviamente è molto più costosa e deve venire da fuori. La maggior parte dei pazienti in quel reparto è nelle stesse condizioni». «Tutti a causa della cannabis?» «Sì», replica lei, girandosi a guardarlo nel pronunciare quella parola. «Poi lo hanno trasferito qui, dall'ospedale militare. È entrato e uscito da qui per quasi un decennio. La guerra è cominciata nel 91 e non so esattamente quando lui sia stato congedato. Di certo è stato nell'esercito che ha cominciato a fare uso di droghe. La cosa era incoraggiata fra le nuove reclute, lo chiamavano potenziare il morale. All'inizio degli anni 80 c'è stato un afflusso di nuovi pazienti. Per lo più erano uomini giovani, intorno ai 20 anni. Venivano dalla città ma anche dalle province. Erano senza famiglia o erano stati buttati fuori dalla famiglia. E tutti avevano problemi connessi alla droga. Nell'arco di pochi anni la composizione della popolazione ospedaliera si è invertita. Quelli che un tempo ne costituivano non più di un decimo erano adesso la schiacciante maggioranza. E poi negli anni 90 centinaia, migliaia di giovani imbottiti di droga e molto, molto arrabbiati. Niente lavoro, niente famiglia, niente futuro. E niente da perdere. La cosa che stava per succedere era successa. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal romanzo di Aminatta Furna, Il ricordo dell'amore. Cavallo di Ferro Editore, 688 pagine, 19,90 euro.